Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, buona giornata a tutti. La riforma del lavoro entrata in vigore nel 2012, la legge Fornero del giugno dello scorso anno, la legge 92, è al centro questa mattina del forum lavoro organizzato dal Sole 24 Ore in diretta appunto dal Sole con la Fondazione dei Consulenti del Lavoro. La riforma Fornero è una riforma che, come vi abbiamo spiegato in tante altre puntate, ha rivisto il perimetro degli incentivi finalizzati alla creazione di nuovi posti di lavoro e ha fissato una serie di nuove regole per i datori di lavoro che intendono fruirne. Si va dagli incentivi per l'assunzione di donne e lavoratori over 50 rimasti senza impiego, alle nuove misure a favore delle start-up, cioè delle nuove iniziative imprenditoriali, dal bonus ricerca per assumere personale altamente qualificato al contratto di apprendistato, individuato come canale d'ingresso privilegiato nel mondo del lavoro per le nuove generazioni. Sono temi che proprio stamattina ha toccato nel suo intervento al Forum del Sole anche lo stesso ministro Fornero, che tra l'altro ha commentato proprio relativamente all'apprendistato: è un'opportunità che le aziende non stanno cogliendo pienamente, mentre dovrebbe essere rafforzato, ha detto, questo ponte tra scuola e mondo del lavoro. Ma tornando a tutta la rosa degli incentivi, ieri in edicola con il Sole 24 Ore c'era un'apposita guida sul tema e anche oggi allora Salva Danaio torna a fare il punto su queste novità, mettendo a disposizione gli esperti dei nostri martedì del lavoro, che anche oggi sono pronte a rispondere alle vostre domande. Nel caso siate datori di lavoro alla ricerca delle soluzioni migliori per assumere nuovo personale, appunto cosa è possibile fare alla luce di questi incentivi economici e legislativi, e nel caso siate invece potenziali lavoratori a chi presto potrebbe essere una nuova offerta, appunto una novità proprio grazie a queste misure. 800 24 00 24, il numero verde che vi dà l'opportunità di intervenire in diretta se volete questa mattina con delle domande, oppure scriveteci al 349 238 6666, all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, scriveteci su Facebook, scriveteci anche su Twitter, appunto se volete ci trovate anche sui social network. Con noi ci saranno Alessandro Rotaporte, nostro consulente del lavoro, e l'avvocato Giampiero Falasca, esperto sempre per le tematiche appunto del lavoro per il Sole 24 Ore, oltre che giuslavorista. Prima di tutto questo però dobbiamo fare un passo indietro e tornare alla trasmissione di ieri di Salva Danaio. Vi ricorderete che abbiamo parlato della questione dei pignoramenti di stipendi e pensioni per le persone appunto che hanno debiti con il fisco, sulla base di un molto ovviamente problematico combinato disposto di due norme, il provvedimento recente di marzo sulle semplificazioni fiscali e il decreto Salva Italia, che invece aveva, come ricorderete, imposto limiti all'uso del contante, appunto introducendo l'obbligo di far accreditare per esempio la pensione superiore a 1000 euro in un conto corrente. Ecco, per effetto di questo combinato disposto, nella pratica le persone che si trovano in difetto con il fisco potevano appunto subire il pignoramento dello stipendio o della pensione. Che cosa è successo ieri? Che praticamente anche sulla base di una sollecitazione molto forte, della quale ieri abbiamo parlato, del Movimento Difesa del Cittadino, che aveva avviato una petizione contro queste norme, e beh, ieri c'è stato appunto un importante provvedimento di Equitalia che ha decretato lo stop immediato ai pignoramenti dei conti correnti su cui arrivano gli stipendi dei lavoratori dipendenti e le pensioni, in attesa di nuovi approfondimenti che si renderebbero necessari appunto su questo meccanismo. Quindi il fisco potrà adesso effettuare pignoramenti solo presso il datore di lavoro o l'istituto previdenziale, ma solo quando sarà certo, questo ha detto ieri Equitalia, che il reddito da stipendio o pensione al centro della misura sia almeno di 5.000 euro al mese. Antonio Longo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino, che stamattina peschiamo a Bruxelles, buongiorno. Sicuramente possiamo ricondurre a voi questo successo perché siete state una delle associazioni dei consumatori che con più vigore appunto aveva avviato questa battaglia. Quante firme avevate raccolto con la vostra petizione? Ma guardi, fino a ieri erano diverse centinaia, quindi è una grande soddisfazione registrare questa vittoria, che io però attribuirei anche alla trasmissione che abbiamo fatto insieme ieri, perché le denunce che sono arrivate dai cittadini, che voi avete messo in onda, e il lavoro che abbiamo fatto insieme, certamente forse ha fatto pensare con un po' di buonsenso i dirigenti Equitalia e l'Agenzia delle Entrate che era il caso di soprassedere a questa norma iniqua. Bene, e quindi insomma incassiamo allora insieme questo successo. Io tra l'altro ne sono anche particolarmente contenta, perché qualche volta si possono ottenere anche dei buoni risultati senza urlare, mettendo in campo delle iniziative di denuncia anche molto tranquille e serene, come quelle che fanno le associazioni dei consumatori anche noi dai nostri microfoni. Di fatto allora adesso con questa nota dell'agenzia di Equitalia appunto vengono bloccate immediatamente tutte le azioni di recupero su stipendi e pensioni di chi ha il debito con il fisco, di chi ha debiti con il fisco, e per il momento si prospetta un riavvio del meccanismo solo nei confronti dei contribuenti con i redditi peraltro più alti. La decisione di ieri vi soddisfa pienamente di Equitalia, Longo? Dovrei dire di sì, ma dico di no, perché vogliamo che venga chiarito definitivamente in via legislativa che il pignoramento bancario, soprattutto sui conti correnti aperti a causa dell'obbligo di tracciabilità di tutti i pagamenti delle pensioni superiori a 1000 euro, va in qualche modo ripensato, revocato, e si deve impedire una volta per tutte e non provvisoriamente che chi prende 1000-1100 euro di pensione si trovi un mese senza alcun reddito. Ecco, va regolamentata meglio da una parte l'assolvimento degli obblighi dei cittadini verso la pubblica amministrazione, e non c'è dubbio, ma non si può accettare che un pensionato al minimo a 1000 euro, 1200 euro resti senza reddito per un mese. Grazie Longo, io le auguro buona giornata, naturalmente per i suoi impegni di Bruxelles. Se ci saranno delle novità naturalmente torneremo anche su questa questione. Buona giornata, a presto. Grazie. Grazie. Andiamo invece al tema di oggi, il nostro martedì del lavoro dedicato agli incentivi alle nuove assunzioni. Il 2012 è stato l'anno del boom dei licenziamenti, con 10,4 milioni di rapporti lavorativi cessati. Un numero che non riesce ad essere raggiunto dalla quota di nuovi posti attivati, che si ferma a 10,2 milioni. Di questi, il 64% a termine, il 20% a tempo indeterminato, l'8,8% con contratti di collaborazione e l'1,5% con forme di apprendistato. Come ci ripetono periodicamente i dati sul mercato del lavoro, le difficoltà di questi anni non stanno risparmiando nessuno. I giovani che vedono un tasso di disoccupazione record e non riescono a trovare una collocazione dopo aver concluso il percorso di studi, le donne, che in Italia lavorano in meno della metà dei casi, gli over 50, che restano disoccupati e non riescono ad essere riassorbiti dal mercato. Per rispondere a queste emergenze, che riguardano i potenziali lavoratori ma anche le stesse imprese, che si trovano spesso nella condizione di non poterli assumere, i recenti interventi legislativi e in particolare la riforma del lavoro del 2012 hanno previsto alcuni incentivi e bonus. Il contratto di apprendistato viene individuato come canale privilegiato per l'inserimento lavorativo delle nuove generazioni. Il datore può inquadrare il nuovo ingresso a un livello inferiore rispetto alla sua qualifica, con uno sgravio contributivo del 30%. Sono previsti bonus anche per l'assunzione di chi ha conseguito un dottorato di ricerca e di laureati magistrali. Per le donne, i lavoratori over 50 e i disoccupati da più di 2 anni, i contributi da versare vengono abbattuti anche del 50%. E misure precise sono previste anche per chi assume cassi integrati e lavoratori iscritti a liste di mobilità provenienti da licenziamenti collettivi. La speranza è che queste facilitazioni aiutino la ripresa del mercato del lavoro. Fattore cardine per poter iniziare a parlare di sviluppo e di allontanamento dalla crisi. Perché tutto questo possa ripartire, servono anche nuove idee a cui dare valore. Non a caso, il decreto sviluppo ha previsto anche alcune semplificazioni per i contratti di lavoro stipulati per avviare una startup. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Vedo che ne state prenotando già tantissime. Io saluto con affetto Paolo, no scusate, Ugo da Torino, che ci scrive e cogliamo appunto molto volentieri questo suo sintetico ma efficace messaggio. Dice: gli artigiani continuano ad attaccarsi al tram, il tema del lavoro autonomo è un altro che dovremmo prendere in considerazione sicuramente in maniera più anche noi efficace. Ugo, magari faremo fare un commento ai nostri esperti di questa mattina. Intanto andiamo a tutta la rosa degli incentivi invece per quelle aziende che hanno bisogno di rapporti di lavoro più o meno duraturi appunto all'interno della loro azienda, perché naturalmente in un panorama molto delicato e negativo, se vogliamo, come dicevamo anche nella nostra scheda, però ci sono ancora aziende che lavorano tanto, ma magari proprio in un contesto di incertezza non sanno bene anche come disciplinare questi rapporti di lavoro. Assumiamo a tempo indeterminato oppure cogliamo queste opportunità che la riforma ci dà per magari intrattenere rapporti di lavoro a tempo più limitato, magari fruiamo appunto di questi incentivi che la riforma Fornero mette a disposizione, una riforma tanto contestata. Questa mattina anche il ministro Fornero ha espresso chiaramente le sue considerazioni sul suo lavoro che ha fatto al Dicastero del Welfare in questi mesi e che è stato, come sapete bene, anche tanto contestato. Ha detto: sono un ministro impopolare, la mia riforma ha avuto più successo all'estero che in Italia. Detto questo, senza ritornare indietro ai commenti sulla riforma, volevo ritornare su Alessandro Rotaporte, intanto buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. E grazie anche all'avvocato Giampiero Falasca, che saluto. Buongiorno avvocato. Buongiorno. Entrambi hanno firmato appunto la guida che è uscita ieri con il Sole 24 Ore. Volevo subito coinvolgere Alessandro Rotaporta perché l'ultima puntata che abbiamo fatto con lui il 9 aprile scorso era quella dedicata agli incentivi per l'assunzione delle donne nelle aziende e per le assunzioni degli over 50. E lì avevamo fatto quella puntata, ma non c'era ancora il provvedimento attuativo di queste risorse finanziarie appunto che incentivassero l'assunzione in rosa all'interno delle aziende. In realtà qualche novità è arrivata, ma non è ancora il provvedimento completo, Rotaporta. Sì, perché c'è stato nel frattempo, rispetto all'ultima puntata in cui avevamo parlato di questo argomento, c'è stato un comunicato del Ministero del Lavoro che ha annunciato la firma da parte del Ministro del decreto che va a individuare le aree geografiche dove c'è una appunto disparità di genere e che sono quelle potenzialmente che possono accedere attraverso l'assunzione delle donne disoccupate, anzi prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, che possono accedere a questi incentivi che portano degli sgravi del 50% ai datori di lavoro che assumono queste categorie. Però purtroppo, come accennava lei, il comunicato non è ancora stato seguito dalla pubblicazione del decreto attuativo, che attualmente è fermo alla Corte dei Conti. C'è una considerazione da fare e riguarda un po', tocca un po' tutti gli incentivi. Intanto qui stiamo parlando dei due lati del rapporto di lavoro, quindi da un lato c'è l'azienda che in queste fasi di difficoltà ovviamente poter accedere a un costo del lavoro abbattuto è fondamentale, e dall'altra parte ci sono i lavoratori, sia che debbano essere lavoratori di ingresso, quindi i giovani, sia lavoratori che magari sono stati espulsi dai cicli produttivi ma che devono ritrovare un impiego. Quindi questo sistema di incentivi in questo momento diventa fondamentale per entrambe le parti. Il meccanismo si inceppa perché questi provvedimenti attuativi non sono mai contenuti direttamente nella norma che disciplina questi incentivi, ma appunto sono delle emanazioni a singhiozzo, e quindi è un po' come se ai datori di lavoro lo Stato consegnasse un'automobile ma manca il volante, quindi non riusciamo a mandarla avanti. Quindi il problema è proprio nel completamento di queste procedure. Se pensiamo che la riforma è entrata in vigore lo scorso 18 luglio, quindi 18 luglio 2012, siamo ad aprile 2013 e i datori di lavoro questi bonus che sono stati introdotti di fatto non ne possono ancora godere, quindi le regole del gioco poi alla fine sono falsate. Oltre al provvedimento Monco relativo al reinserimento appunto delle donne che non hanno lavoro, alle donne nel mercato del lavoro, quali altri provvedimenti mancano? Se ne possiamo citare qualche altro esempio, Rotaporta? Ma allora, con riferimento appunto agli incentivi introdotti dalla riforma del lavoro, mancano le istruzioni operative da parte dell'INPS per l'assunzione dei over 50 disoccupati da più di 12 mesi, quindi lì non ci sono le non serve un decreto attuativo, ma non ci sono le istruzioni operative, quindi di fatto i datori di lavoro non possono andare a scomputare questi sconti dal versamento della contribuzione. Poi ad esempio il bonus ricerca, che è un credito d'imposta che è stato citato nella scheda che abbiamo ascoltato prima, anche lì il decreto attuativo è pronto, non è ancora pubblicato, ma poi dopo la pubblicazione del decreto attuativo bisognerà attendere una comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico che dovrà fissare la data di un bando e le procedure operative, quindi cioè, vediamo che veramente i tempi diventano biblici. Allora, di tutto questo torneremo a parlare, vedo, stavo guardando adesso, scusate, il tempo che scorre, quindi devo già fare la prima pausa. Altre cose che hanno funzionato a metà sono per esempio le opportunità che sono state date ai lavoratori che vogliano assumere appunto degli apprendisti. Per questi la dote, particolarmente interessante, è ricca, ma non è stato uno strumento che ha avuto moltissimo consenso, lo diceva anche stamattina il ministro Fornero appunto nella platea dei datori di lavoro. Eccoci ancora insieme a Salva Danai, ancora buongiorno da Deborah Rosciani, il nostro martedì del lavoro, rubacchiando dalla guida che è uscita ieri con il Sole 24 Ore. Oggi parliamo di tutti gli incentivi per quelle aziende che vogliono assumere a tempo determinato, indeterminato, donne over 50, che punto è la riforma a questo proposito. E allora 800 24 00 24, volevo salutare gli ascoltatori che, siccome parlo velocemente, non hanno capito esattamente il termine inglese che ho utilizzato prima, start up, le società che stanno nascendo, e quindi ecco, per fare una traduzione in italiano molto semplice, quindi Carlo da Ostia che ci chiedeva di parlare in italiano non aveva capito che cosa avessimo detto. Allora, prima di cominciare la nostra chiacchierata sugli apprendisti con Giampiero Falasca, voglio sentire Marcello da Torino, perché magari la risposta alla domanda appunto di Marcello potrebbe essere proprio nell'istituto dell'apprendistato, ma così me lo sto inventando io. Marcello, buongiorno. Buongiorno Deborah, è un piacere parlare con lei. Grazie, anche per me è un piacere parlare con lei, Marcello, ci dica. La mia domanda è questa: io ho cercato di capire tramite il mio commercialista se era possibile assumere nella mia ditta individuale mio figlio oppure mia moglie over 50, cercando di capire se c'erano delle agevolazioni, e mi è stato risposto che per i familiari queste agevolazioni non sono addirittura questo. Quanti anni ha suo figlio Marcello? Mio figlio ha 21 anni, mm-hmm, e mia moglie invece ne ha 51, e quindi potrebbe eventualmente cosa. Io avrei l'opportunità nella mia ditta, che sia commerciale che artigianale, di aprire un punto vendita e quindi di assumere una persona. E lei, giustamente, lasciare a spasso mio figlio e mia moglie e assumene una terza. Se volesse usufruire degli incentivi, altrimenti mantiene il rapporto di lavoro. Caricarmi di qualcosa come circa, stipendi a parte naturalmente, qualcosa come 4-5 mila euro l'anno, che in questi periodi diventerebbero anche pesanti. Marcello, la ringrazio per la sua testimonianza. Giampiero Falasca, il caso di Marcello è molto interessante. Lui dice, insomma, se io volessi fruire degli incentivi dello Stato, devo andare a caccia sul mercato del lavoro, vedere le persone che sono a spasse, chiaramente. Ecco, no? E però contestualmente creerebbe due disoccupati sul mercato del lavoro, che sarebbero poi tra l'altro anche i suoi familiari, no? I paradossi, non dico della riforma Fornero perché non c'entra niente, poveretta almeno in questo, ma insomma, che ne pensa di questo caso? Potrebbe intanto assumere come apprendista suo figlio, infatti, no? Infatti, bravissima Debra, intanto mi unisco ai complimenti di prima sulla vicenda di ieri. Stavo pensando che alle prossime quirinarie la vedremo candidata. Non credo proprio, guardi, non ho nessuna velleità politica, allora, non sono capace. A parte i complimenti, però diciamo, tornando alla domanda, è vera in parte la risposta del commercialista, è sicuramente vero che l'incentivo in quanto tale dato a un familiare non mi sembra legittimo, ma assumere con apprendistato è sicuramente consentito, e in quel caso come dote dell'utilizzo di quel contratto ci sarebbe l'applicazione di una contribuzione agevolata, che sarebbe all'11,60%, quindi il 30% in meno di quella prevista. Quindi lui tra l'altro ha fatto una specifica, avvocato Falasca, la sua è una ditta individuale, quindi ha l'opportunità di farla, perché so che c'è anche un limite appunto di numero di dipendenti. Lui potrebbe ancora di più Deborah, in questo caso avrebbe la contribuzione sostanzialmente allo 0%, cioè pagherebbe solo l'1,61% che è stato introdotto dalla legge Fornero, quindi pagherebbe zero contributi previdenziali, quindi avrebbe un incentivo formidabile. Quindi il figlio lo può assumere, ovviamente, attenzione, poi ci deve essere un percorso formativo molto rigido. Su questo, se posso dire, io condivido in pieno quello che diceva Rotaporta, no? Marco Biagi diceva sempre che non c'è un peggior disincentivo causato dalle regole, un buon incentivo non compensa cattive regole, e noi abbiamo qualche incentivo decoroso e regole pessime. Okay. Questo paradossalmente danneggia anche quegli strumenti contrattuali dove invece le regole sono fatte bene. L'apprendistato, dopo 10 anni di disastri di tutti i tipi, è stato messo a posto nel 2011. Eppure i datori di lavoro ancora non lo utilizzano, lo utilizzano poco. Perché secondo lei? Perché temono di perdere tempo con questo percorso formativo che devono fare con i giovani che assumono? Che perché? Si è creato nel decennio scorso, quindi 10 anni di mala gestione non si supera in un anno, però era gestito talmente male il contratto, per cui c'era un'incertezza enorme su tutti gli adempimenti, come fare la formazione, le regioni di mezzo e quant'altro. Ora è arrivata una corposa semplificazione, ma nessuno ancora si fida, tant'è vero che il ministro, non è casuale che il ministro qualche mese fa addirittura ha utilizzato Fiorello per fare delle pubblicità, perché aveva una volta tanto un'area di semplificazione normativa, di semplicità di regole, e non l'ha potuta usare. Sì, magari se fosse stato un po' più chiaro, quello spot sarebbe stato anche utile. Esatto, e poi seconda osservazione, più che chiamare Fiorello, noi dobbiamo creare un contesto che è favorevole alle assunzioni. Perché le persone non usano apprendistato? Perché sentono che il sistema sembra quasi involontariamente mettere il bastone tra le ruote a chiunque vuole assumere. Quindi non si fidano, dice ok, quella singola regola mi pare che funzioni, ma siccome per ogni cosa ci vuole il decreto, quant'altro, prima Alessandro Rotaporta citava nella documentazione, la decretazione mancante, no? Ma sapete che c'è un decreto che è stato emanato, quello di cui parlo sempre sullo speciale, sulle causali nella somministrazione, no? Ma non è ancora stato firmato dalla Corte dei Conti e quindi galleggia nel limbo tra le cose emanate ma non ancora vigenti. Tra l'altro stavo pensando, sì, infatti, quindi mancano dei pezzi, mancano dei passaggi, sempre relativamente al contratto con l'Istituto dell'Apprendistato, non è che le aziende hanno anche paura comunque, siccome il percorso formativo è comunque complicato e magari chiaramente renderlo totalmente stringente all'interno dell'ambiente di lavoro e chiaramente magari l'imprenditore vuole essere un po' più light, non è che ha paura di avere sempre questo ispettore del lavoro al suo interno che controlla le modalità con cui viene applicato, non è che adesso parto è sanzionatorio il meccanismo chiaramente per chi non applica secondo i criteri della legge l'apprendistato, appunto, però si ma perdono. Guardi, presumo che la paura sia questa, ma anche qui c'è una cattiva comunicazione da parte di chi fa le norme del Ministero. Ormai, diciamo, gli oneri formativi sono molto leggeri, per alcuni anche troppo leggeri, no? Cioè bisogna in sostanza fare affiancamento del lavoratore. E soprattutto il Ministero del Lavoro ha detto a chiare lettere con una circolare che, diciamo, se la formazione non viene fatta, gli ispettori del lavoro prima di fare sanzioni devono in qualche modo mettere l'impresa nelle condizioni di recuperare il proprio debito formativo. Quindi io sono convinto che sia questo, cioè è un'area di semplicità, cioè qui di grosse migliorie non vanno fatte, il contratto è semplice, ma le aziende non si fidano perché il contesto generale è di questo. Magari tipo. Si preferisce fare un tempo determinato senza perdere tempo con la formazione e lì ecco come dire i limiti sono inferiori. Volevo tra l'altro chiedere ad Alessandro Rotaporta, che invece di quest'altro aspetto si è occupato per la guida uscita ieri, che differenza c'è fra il contratto secondo il criterio dell'apprendistato e i contratti di inserimento? Anche questo è un istituto che permette una formazione sul campo, ma che differenza c'è fra le due tipologie di contratto? Beh, intanto bisogna precisare che i contratti di inserimento sono stati abrogati dalla riforma del lavoro, quindi potevano essere costituiti solo fino al 31 dicembre 2012, quindi di fatto oggi non c'è più la possibilità di stipularli. La differenza è che anche il contratto di inserimento prevedeva la sottoscrizione di un percorso formativo, però era mirato a una platea di destinatari più ampia rispetto ai soggetti destinatari dell'apprendistato, quindi non solo giovani ma anche soggetti svantaggiati, e erano previsti degli sconti contributivi che si differenziavano a seconda della tipologia di azienda e dell'area geografica dove questo contratto veniva stipulato. Anche su questo contratto è interessante vedere come è andata a finire la sorte degli incentivi, perché solo 2 mesi fa il Ministero del Lavoro ha comunicato la firma del decreto che libera appunto gli incentivi su determinate aree geografiche per contratti che non si possono più stipulare, quindi per roba vecchia. Esatto, per roba vecchia 2009-2012, quindi c'è un triennio di vuoto che adesso probabilmente con la definitiva pubblicazione del decreto verrà colmato. Allora, tra l'altro non abbiamo finito di rispondere al nostro ascoltatore di Torino, adesso sento anche Donato e Mustafa che ci chiamano da Taranto e Brescia, sulla questione invece della moglie over 50. Voleva intervenire lei, Rotaporta, sulle opportunità che avrebbe il nostro ascoltatore, criteri ordinari di assunzione. Ma come ha detto prima l'avvocato Falasca, nel caso dei parenti le cose sono un attimino da valutare con attenzione, perché al di là della possibile fruizione o meno dell'incentivo, il rapporto di lavoro, ad esempio in caso di una ditta individuale con il coniuge o con i figli, se appunto non ci sono anche delle circolari IMSS di vecchia data in materia, se non si configura con tutte le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, non è considerato tale, quindi in caso di controllo, soprattutto da parte dell'INPS, può essere disconosciuto il rapporto di lavoro, certo. Quindi lo stesso versamento contributivo viene annullato, per cui al di là dell'incentivo, quindi a maggior ragione sull'incentivo ci possono essere dei problemi, va valutato alla base se questo rapporto di lavoro, soprattutto nel caso delle ditte individuali, poi ad esempio nelle società il discorso è già diverso perché il rapporto non è più diciamo bidirezionale tra il titolare, ma c'è una compagine societaria dietro, però va valutato con attenzione se il rapporto di lavoro sussiste, se sussiste ed è legittimo, perché no, si può anche pensare di accedere a degli incentivi, però deve essere sussistente, cioè, non so, immaginiamoci l'assunzione da parte di un SRL della moglie di un socio, magari sono 10 soci, non è un rapporto di lavoro diretto, in quel caso lì se il rapporto di lavoro sussiste e ci sono le condizioni di rispetto dei requisiti per l'accesso agli incentivi, si potrebbe anche pensare di attivarli. Stanno arrivando tante bellissime telefonate, purtroppo il tempo è tiranno, non riesco a sentire tutti, ma noi andiamo avanti con i nostri martedì del lavoro, non vi preoccupate. Ah, tra l'altro volevo leggere anche un comunicato stampa che mi è arrivato poco fa da parte di Adecco, che organizza il 30 aprile in oltre 50 paesi di tutto il mondo, fra cui anche l'Italia, la manifestazione Adecco Way to Work, cioè la strada per cercare lavoro. I dipendenti di Adecco si renderanno disponibili in molte città probabilmente del nostro paese, magari prossimamente vi darò qualche notizia in più, fuori dai propri uffici e filiali per offrire consigli, indicazioni e strumenti a chi è in cerca di un'occupazione. Questa è la prima edizione di questa manifestazione ed è chiaramente rivolta in particolar modo ai giovani di età inferiore ai 30 anni, che è la categoria più colpita dalla crisi occupazionale in atto. Poi magari con Marco Lombardo mettiamo tutte queste informazioni sul nostro profilo Facebook. Adesso rapidamente Donato da Taranto, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Allora, la questione è molto semplice. Io sono un libro collezionista che si vuole riciclare, sì. Però vado in pizzeria dal mio amico, gli dico: mi tieni qua 2 mesi a lavorare? E quello mi risponde, giustamente, se viene l'ispettorato del lavoro mi massacra. C'è mamma una mia. Forma. Ah, certo. Prego? No, scusa, pensavo che chissà con che forma. Lei dice, c'è una forma regolare per poter lavorare 2 mesi in una pizzeria? Sì, mi faccio un'assicurazione personale... Faccio i versamenti all'INAIL per far stare in regola il mio amico. Insomma. Donato, si fermi lì, Rotaporta, vengo subito da lei. Ma il voucher lavoro per questa persona può andare bene? Ma sicuramente sì, sono lavori occasionali, lavori brevi, quindi poi se rimane nel limite, la riforma in questo senso ha semplificato molto, perché ancora il vademecum che è uscito ieri, rilasciato dal Ministero del Lavoro, ha proprio chiarito in questo senso, per fortuna, proprio a chiare lettere che il requisito ormai che rende genuine le prestazioni con i voucher sono solo quelli reddituali, quindi se si sta in quelle fasce di reddito, in questo caso qui una pizzeria, quindi un'attività economica, quindi se si sta nei 2000 euro netti di compenso nei confronti dell'ascoltatore, si è a posto e si è tranquilli. E infatti Donato ci scriva, che così utilizzeremo il suo indirizzo per risponderlo, ovviamente le diamo tutte le precisazioni del caso per poterle portare anche appunto al suo amico pizzaiolo e quindi lo convince del fatto che la può assumere anche per brevissimi periodi ma regolarmente. Silvia da Cuneo, un ispettore dell'INAIL. Silvia, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Niente, io volevo dire che questa riforma è stata fatta male. È stata fatta male per chi lavora, per chi dà lavoro e per noi che controlliamo quelli che lavorano. Ah, ecco, per quale motivo? Ci racconti perché qualche caso concreto? È stata fatta apposta, come tutte le leggi italiane, una legge mille interpretazioni. Quindi mille ispettori dell'INAIL, mille ispettori dell'INPS e del DTL, mille interpretazioni diverse. Io vorrei sapere come un datore di lavoro può essere sicuro, ma non sarà mai sicuro. Il datore di lavoro mi chiede un chiarimento, io non potrò mai dargli un chiarimento. È allucinante che a distanza di mesi sia uscita una legge e ieri sia uscito ancora l'ennesimo vademecum su come interpretare la legge. Guardi, stamattina anche ecco, i consulenti del lavoro l'hanno detto con molta chiarezza al ministro Fornero al forum organizzato dal Sole 24 Ore. Grazie anche a lei per la sua testimonianza, Silvia Aspetti, che abbiamo raccontato tante volte. Giuseppe da Firenze invece ha la moglie di 48 anni che chiaramente cerca lavoro perché è giovanissima questa signora. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno Deborah e saluti a tutti, complimenti per la trasmissione. Ci dica. Allora ascolti, niente, 48 anni ha trovato, avrebbe trovato un'azienda che si occupa di automazione e questo qua la rimpalla in continuazione dicendogli sto aspettando che la commercialista mi dia delle indicazioni sugli sgravi che posso avere, insomma queste cose ci sono però ma non si capisce bene. Insomma, infatti, ecco, vorrei... Giuseppe la ringrazio, infatti è proprio quello che raccontavamo prima sul tema dell'assunzione appunto delle donne, magari siccome già Rotaporta ha commentato su questo aspetto, ritorno a Giampiero Falasca, il povero commercialista che viene chiaramente adesso preso di mira perché è in ritardo lui ma di fatto non ha effettivamente gli strumenti con i quali poter predisporre un contratto di lavoro che permetta a questa signora di entrare in questa azienda. Posso fare una battuta che non è neanche tanto. Intanto sbagliano professionista perché secondo me dovrebbero andare dal consulente del lavoro per avere queste informazioni, ma non è una battuta, cioè è talmente alto ormai il livello di specializzazione che viene richiesto su questi temi che non esiste più il professionista che mi dà un'occhiata su tutto. Sì, sì, no, lei ha ragione che magari questa è un menage familiare anche con un budget ridotto, non è che si possano avvalere un giorno dell'avvocato, un giorno del commercialista. Al contrario degli avvocati, i consulenti del lavoro non sono molto esosi, quindi insomma allo stesso Rotaporta si candida qui in diretta, secondo me. Secondo me Giuseppe se ci scrive gli possiamo dire, però il problema è che comunque quello che dicevamo all'inizio, in realtà l'incentivo ancora per la donna non c'è, non è completato l'iter. Non è completato l'iter, quindi noi facciamo gli incentivi postumi, cioè stiamo parlando, quello che ha detto prima Alessandro è agghiacciante, stiamo sistemando gli incentivi in 2009-2012, ma gli incentivi servono prima per convincere uno ad assumere. Non devono arrivare mesi e mesi dopo come mancetta per uno che comunque è già assunto. Cioè questa è proprio l'assurdità che governa il nostro sistema. Ieri parlavo con un dirigente del Ministero del Lavoro che mi diceva, ovviamente off record, che non ce la fanno più con questo tema dei decreti, gli arrivano sulle spalle decine di decreti attuativi che si bloccano, ora Corte dei Conti, ora nell'altro Ministero. Quindi insomma non vorrei essere troppo pessimista, ma qui va ripensato il meccanismo. Allora, mettiamo che il povero commercialista di turno sarà sempre schiacciato da una cosa più grande di lui. Guardi, se ho visto quello che ho visto, e l'ho visto ieri al Parlamento, quanto Napolitano ha strigliato le forze politiche, adesso vorrei vedere appunto tutti i nuovi ministri bastonati nello stesso modo affinché possano appunto lavorare in maniera molto più veloce e completare tutti questi tasselli mancanti appunto alla riforma del lavoro. Piaccia o non piaccia, comunque nella certezza della legge che si lavora meglio. Questo vale per il lavoro come per tutti gli aspetti. Tra l'altro, Rotaporta, sulla questione del pizzaiolo che abbiamo detto poco fa, Stefano ci suggerisce lavoro a chiamata anche per il nostro ascoltatore da Taranto che l'amico pizzaiolo non vuole prendere. Sì, lavoro a chiamata perché è uno dei settori dove si può stipulare anche il lavoro a chiamata, però se appunto, ripeto, si rientra in quel limite economico che citavo prima, quindi nel caso degli imprenditori 2.000 euro o 5.000, se sono altri committenti si può anche ricorrere al voucher, cioè proprio l'utilizzo tipico in quel determinato settore. Allora, Mustafa da Brescia, l'ultima telefonata di oggi, buongiorno. Buongiorno, Deborah. Ci dica. Vorrei chiedere ai suoi ospiti, io ho 52 anni e sono senza lavoro da più di 3 anni. Vorrei se c'è qualche prospettiva, se ci sono o ci saranno qualche incentivi per over 50, over 52. Ecco, perché qua, adesso faccio le domande alle agenzie e tutto, però mai, non chiamano mai, e sono italiano, ho versato più di 20 anni diversamente. No, ma Mustafa, ma qua non è il problema italiano o straniero, abbiamo già capito che ormai anche questo limite l'abbiamo strasuperato, il problema è che poi la zona di Brescia ha anche tante difficoltà, lì ritorniamo, rotta porta, manca l'incentivo all'over 50. Sì, però ce n'è un altro nel caso dell'ascoltatore, così diamo anche qualche buona notizia, e non sempre negative, perché se lui effettivamente risulta disoccupato da più di 3 anni, quindi in questo caso 3 anni, come ha detto lui, c'è un'agevolazione che deriva dalla legge 407 del 90 e chi lo assume può avere uno sgravio notevole dal 50% fino all'abbattimento totale dei contributi, purché l'assunzione sia tempo indeterminato, quindi qui c'è un bel incentivo da parte dei datori di lavoro che e però lui si sta rivolgendo alle agenzie interinali, da quello che ho capito, se non lo sanno loro che lui ha questo requisito, infatti, poveretto. Che se effettivamente quel requisito sussiste, forse è l'incentivo che concede il maggior sconto contributivo tra quelli che sono attualmente in vigore. Grazie ad Alessandro Rotaporta, Giampiero Falasca, sapete bene che queste puntate sono sempre molto vivaci, per cui ritorneremo ancora su tutti questi argomenti. Andiamo avanti senza sosta con i nostri martedì del lavoro. Intanto a tutti quanti buona giornata. Domani con Salva Danaio andiamo invece alla rimodulazione delle spese della famiglia, che rinunciano sempre di più a farsi gli esami anche medici più importanti. A domani, buona giornata. Salva Danaio.